Ed è con immenso piacere che do il benvenuto ad ascoltatrici e ad ascoltatori che sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Wombat, lo ricordiamo, 13.59 AM, onde mediocri quantomeno nell'area di Firenze Nord, wombat.noblogs.org per chi invece ci ascolta in streaming. Spero che i suoni siano decenti, spero che la mia voce si senta forte e limpida. Oggi è il 27 di maggio, sono le 19.04, questo è Bricobaldo con un sottofondo di Onimaki. Let's Fall in Love, vi do le ulteriori informazioni per poter interagire con me. Potete utilizzare la mail posta wombat@insiberia.net, altrimenti potete scrivermi sul pad in modo più immediato. Dovete andare sulla home del blog e da lì trovate l'indirizzo, che comunque è pad.riseup.net/p/direttawombat-keep. Scrivetemi. Tema pressoché unico per questa puntata, per quest'oggi, visto che ci stiamo avvicinando a sabato 30 maggio, data importante per la città di Firenze, perché si vedrà il flash mob alle ore 17, il flash mob che va un po' a sostituire quello che non è stato il primo maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici, che ormai da diversi anni vede le strade fiorentine solcate dagli sindacati di base soprattutto. Non si è tenuto, non c'è bisogno di ricordarlo, che cosa è successo in questi tempi. Ci è stato vietato di uscire, questo alle manifestazioni ancora non sono permesse. Nonostante questo abbiamo visto nei giorni scorsi

Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Stefano Cecchi dell'USB, buonasera. Buonasera. Siamo in prossimità del 30 di maggio, è la data che è stata trovata, mettiamo così, in sostituzione del primo maggio, il primo flash mob, non è proprio il primo, ma uno dei primi flash mob che vediamo a Firenze, ce n'è stato uno anche giusto oggi pomeriggio, che è martedì, si parla degli appalti delle cooperative sociali, in questo caso delle biblioteche, bibliotecari e bibliotecarie. Come è andata? Ma l'iniziativa è andata molto bene, c'erano quasi tutti i lavoratori, che sono un centinaio, che è stata una manifestazione molto sentita tra l'altro, perché nessuno è stato sulla loro pelle. Allora, questi lavoratori sono lavoratori che da anni lavorano negli appalti di comune, nelle biblioteche, costituiscono, diciamo, l'ossatura delle biblioteche, perché ormai dipendenti diretti non ce ne sono rimasti molti. Di più sono lavoratori in appalto, che appartengono a un'associazione temporanea di imprese e è composta da varie cooperative. Questi lavoratori, con il lockdown, con la chiusura delle biblioteche, sono praticamente da 2 mesi senza retribuzione, perché sì, dovranno avere la FIS, ma coi tempi la FIS sarebbe una specie di cassa integrazione, il fondo integrazione salariale, però con tempi lunghi di erogazione, praticamente sono 2 mesi che non portano a casa nemmeno un euro. In più c'è il problema che oggi il flash mob è stato fatto proprio in occasione della riapertura delle biblioteche comunali. Il comune ha fatto la scelta di aprire 5 biblioteche, però usando soltanto il personale interno. Per cui questi lavoratori sono attesi, non sanno quando riprenderanno, né come e quanto tempo ci vorrà. Il comune in questa cosa qua è stato veramente spregevole, perché almeno un segnale, siccome la cultura è importante, no? Che comincia a spendere qualche lampione o qualche telecamera, ma che rilanci la cultura e che spende soldi in questa, no? E quindi poteva dare un segnale, fare ripartire anche un po' di questi lavoratori, anche se gradualmente. Qui siamo di fronte a 100 lavoratori, 100 famiglie che non hanno reddito e che passano un brutto periodo di vita, tra l'altro tutti ragazzi, insomma, quarantenni e abbastanza giovani, e che quindi hanno necessità di reddito. Qui si pone interamente il tema di un reddito garantito per tutti. Ecco, fra l'altro sono lavoratrici e lavoratori che già abbiamo visto mobilitati anche negli anni scorsi, un precariato di lunga data, si può dire, perché davvero persone anche da 10 anni che si trovano con contratti precari. Questa è una storia che va avanti da 13 anni, la ricordavo stamani, oggi in piazza mentre parlavo. È una storia che va avanti da 13 anni, dal 2007, quando decisero di non gestire più direttamente tutte le biblioteche, ma di darne in parte in appalto. Questo è un problema che è lungo 13 anni e che appalto dopo appalto, rinnovo dopo rinnovo, si sono viste sempre peggiorare le condizioni di vita, di lavoro e salariali di questi lavoratori e lavoratrici. Peraltro pochi fanno il tempo pieno, sicché parecchi sono anche part time, quindi sono già salari ridotti e in questa fase salari azzerati. E loro portano avanti un bel pezzo della cultura fiorentina. Ecco, poi tornando al 30, le rivendicazioni sono veramente tante, sono veramente ampie, però diciamo possiamo intanto fare tirare un po' le somme di quello che è stato questo periodo, non solo nel settore dei lavoratori, degli appalti, delle cooperative, ma ad esempio anche per i dipendenti pubblici o per la questione dei braccianti. Ha evidenziato in modo netto le disuguaglianze che esistono, forse le ha anche ampliate. Quindi intanto magari un ricapitolo di quello che è stato questo periodo, e poi anche il volantino che è stato fatto è molto propositivo. Certo. Quindi vediamolo insieme, ecco. Ecco, il Covid-19 ha messo in evidenza quello che era già precedentemente, e l'ha esasperato ulteriormente, no? Perché le condizioni di precarietà, di salari bassi, di pochi diritti c'erano anche precedentemente. In questa fase si sono acuiti maggiormente, e si sono acuiti maggiormente per coloro che vivono le condizioni lavorative peggiori rispetto a altri. Si è acuito il problema della sanità, cioè, questo è inutile dirlo, è davanti agli occhi di tutti, no? Le decine di migliaia, perché si parla di decine di migliaia di morti, soprattutto in Lombardia, dovute al fatto che in questi anni si sono fatti tagli enormi alla sanità pubblica regalando soldi alla sanità privata, si sono ridotti i posti letto, il numero chiuso a medicina, poi ci mancano anche medici, tutto in una politica fatta di privatizzazioni e di taglio del welfare, e su questo le responsabilità sono grandi di entrambi gli schieramenti politici che sono ascoltati in questo paese, il centro-destra e il centro-sinistra. Nessuno è salvabile da questo, così come nel mercato del lavoro, nessuno è salvabile da questo. Pochi giorni fa era il 50° anniversario dello Statuto dei Lavoratori. L'analisi avrebbe fatto che cosa è rimasto dello Statuto. Uno Statuto che era stato frutto di lotte finali e che aveva rappresentato un momento significativo di introduzione della democrazia nei luoghi di lavoro. Passo dopo passo, in quella che chiama la Seconda Repubblica, si è cercato di smantellare. Prima Prodi, poi Berlusconi, infine Renzi, che ha dato il taglio decisivo di Cesoia a molte delle regole dello Statuto dei Lavoratori, cancellando l'articolo 18 e rendendo libero il licenziamento. Quindi le responsabilità sono bilaterali, di tutti gli schieramenti che sono succeduti in questi anni alla guida del paese. Perché i lavoratori sono sempre stati i lavoratori, le masse popolari, coloro che stanno in condizioni di disagio, eccetera, sono sempre state considerate l'ultima ruota di casa in questo paese. Ecco, fra l'altro, anche da quello che mi hai detto prima, di un presidio molto partecipato, quantomeno questo abbia portato una maggior consapevolezza da parte della massa dei lavoratori e delle lavoratrici, che molto difficile è stato negli ultimi anni mobilitare e portare all'attenzione dell'opinione pubblica. Certo, c'è stato un disincanto in questi anni. Ora, quando poi si paga anche sulla propria pelle, perché poi bisogna dirlo, è vero, la gente quando le sente sulla propria pelle forse reagisce maggiormente. Noi dobbiamo in questo contesto qui riuscire a dare delle risposte ai bisogni della gente. Il primo bisogno è quello di organizzazione della gente, perché se no alla fine qualcun altro, secondo me è un pentolone che bolle, no? Non è che l'emergenza Covid passa domani. L'emergenza Covid poi si trasforma in emergenza sociale, in emergenza salariale, in emergenza dei diritti. O noi siamo in grado di dare risposte a questo pentolone che sta per esplodere, oppure saranno altri che daranno risposte e che non saranno delle belle risposte. Ecco, fra l'altro citavi prima l'anniversario dello Statuto dei Lavoratori e delle Lavoratrici, ma in verità pochi giorni fa era anche l'anniversario di USB, ha compiuto 10 anni. 10 anni, sì, ancora non è maggiore. Ora ha compiuto 10 anni, sì, il 23 di maggio del 2010 è nata questa esperienza di USB dalla messa insieme di alcune ispezioni di sindacalismo indipendente che c'era in questo paese. Sono stati 10 anni anche di forte crescita, di grandi contraddizioni, eccetera, perché non è mai facile ricostruire un soggetto sindacale in un paese dove la maggioranza dei lavoratori è disillusa dallo stesso. Quando li fate di sindacato a tanta gente li si iniziano a vedere, perché quando li fate di sindacato spesso la gente dice sono quelli che hanno levato diritti. Un certo tipo di sindacato è quello che è stato colluso con il potere politico in questo paese, è quello che ha tolto anche tanti diritti ai lavoratori. Comunque, ritornando sui 30, le parole d'ordine sono tante, no? E sono importanti, ma ci sono due o tre parole che sono fondamentali: i diritti ai redditi, il diritto alla sanità per tutti, il diritto alla scuola e la difesa dei diritti, perché i diritti sono fondamentali, perché il lavoro è un diritto, e il lavoro deve essere dignità, un po' essere una mancia, così e via. Quindi, ripartendo da questo, bisogna riuscire a ricostruire sensibilità, che è difficile, guardi, io ne sono conscio, è estremamente difficile mettere la gente insieme, perché non è che siamo usciti migliori da questo lockdown, io non credo siamo usciti migliori, anzi, forse siamo usciti anche più cattivi rispetto a quelli che stanno peggio di noi, basta girare sui social e queste cose ci vedano e purtroppo si veda. Purtroppo è vero, purtroppo è così. Allora, il 30 non sarà una manifestazione, sarà un flash mob. Sarà un flash mob un po' itinerante, che avrà come punto di partenza di fronte a Santa Rosa, al presidio riconquistato dell'ASL, e poi si snoderà sul Lungarno, prima sulla parte oltrarno e poi sulla parte di Guardarno, cioè da che parte la si guarda, insomma. Prima ci si arriverà fino al ponte Santa Clinica, poi dal ponte Santa Clinica si attraverso il ponte e si ritorna. Sarà una manifestazione, un flash mob fatto nel rispetto dei distanziamenti, eccetera. È una risposta forte che vogliamo dare, non ci hanno fatto fare il primo maggio, ora poi anche con uno spirito diverso, perché vogliamo uscire da questa crisi con una spinta propulsiva e non con un ulteriore arretramento dei diritti, perché quello di cui ho paura è che domani, cioè oggi girando per il centro, andando al presidio, vedere il centro deserto, i negozi chiusi, domani quando qualcuno riapre dice se vuoi lavorare ti do 3 euro l'ora, se non si può lavorare. Non bisogna arrivare a questo, bisogna resistere, riconquistare i diritti, perché questo paese se no a pagare sono sempre soliti, coloro che lavorano, coloro che sono precari, coloro che non hanno reddito. Ecco, due parole io le spenderei anche, visto l'attività di USB, che è un po' nell'arco di questi 10 anni, ma in particolare nell'arco degli ultimi 2 mesi, un tema che fra l'altro è stato davvero su tutte le pagine dei giornali, purtroppo a mio modo di vedere spesso in un modo un po' approssimativo, un po' sbagliato, la questione dei braccianti, la questione dei lavoratori agricoli. Ti sembra che la discussione, il dibattito abbia preso la piega giusta? Ti sembrano sufficienti le misure prese per quanto riguarda la regolarizzazione delle persone che lavorano nell'agricoltura? No, le misure prese non sono sufficienti, perché non si può regolarizzare uno per 6 mesi e poi farlo tornare clandestino, no? C'è un problema di diritti e di dignità e di tutti. Il settore di bracciantato agricolo, coloro che ci raccolgono pomodori, gli aranci e tutta la frutta che si compra al supermercato o al negozio, sono lavoratori e fino ad oggi sono stati fantasmi, cioè buoni solo per lavorare, e non si può fare questo. Qui è un problema di diritti fondamentali, e su questo ci insegna tanto Abu Hawar su Mahaoro, che è il nostro leader delle lotte branciantini, no? Su questa storia. Sono lavoratori che hanno un volto, un diritto, un cuore, un sangue come tutti. Sono lavoratori che non sono solo braccia per raccogliere i pomodori, ma sono persone che hanno bisogno di diritti. Noi abbiamo bisogno di lavoro, ma non possiamo importare braccia. Noi importiamo persone che devono essere trattate al pari di tutti gli altri lavoratori che lavorano nel settore. È vero, nel settore agricolo c'è il caporalato che va combattuto. C'è una legge sul caporalato, ma che nessuno applica. C'è un problema della grande distribuzione, perché il problema grosso è anche quello della grande distribuzione, no? Che compra il raccolto prima che sia fatto a prezzi bassissimi. E poi non si può lavorare 12 ore al giorno per 30 euro e vivere in quelle condizioni. Chi lavora deve avere la propria dignità, deve avere dove stare, deve essere retribuito e deve avere un contratto. E deve avere il permesso di soggiorno, che poi dopo 6 mesi si trasformerà in un altro permesso di soggiorno. Cioè, il diritto all'inclusione di tutti, l'inclusione sociale e culturale di tutte le persone che vengano in questo paese. Nessuno deve rimanere indietro, anche uno sulla candela manifestazione, perché è fondamentale, è un settore importante, è debole perché è un settore debole, difficilmente organizzabile, perché quando non sei regolare sei ricattabile, eccetera. Quindi la regolarizzazione è stata fatta. Anche le lacrime della Bellanova, a me i ministri che piangano mi fanno brividi, perché prima di lei ha pianto la Fornero e ha fatto piangere milioni di persone. Non vorrei che si ripetesse la stessa cosa. Non si può trasformare dei lavoratori 6 mesi regolari e poi si è visto sul visto, solo per il profitto. Buono, allora il 30 in piazza, nessuno deve rimanere indietro, ricordiamo, ci sono delle misure da tenere, 2 metri di distanza, le mascherine, tanti cartelli. E portare tanti cartelli. ho scritto ognuno la propria rabbia sui cartelli. Bene. E che la rabbia, e che tutte le rabbie diventino un'unica rabbia, per cambiare lo stato presente delle cose. Mi viene da ridere a dirlo, però è così. Bisogna crederci. Bisogna crederci, e noi allora ci vediamo finalmente, ci vediamo. Direi il 30 in piazza. Va bene, l'aspettiamo, la radio ufficiale della manifestazione. Radio ufficiale, ci saremo presenti con una regia, fra l'altro, quindi sarà anche possibile raccogliere le voci delle persone durante il flash mob. Bene, grazie Stefano Cecchi. Grazie a te. A buona sabato. Serata. 59 and then Cartridge Steaming, the podcast. Ascoltare repliche, accedi al nostro blog. Bene, abbiamo sentito la voce di Stefano Cecchi, Unione Sindacale di Base, che ha compiuto appena ora 10 anni. Tanti auguri. Intanto di sottofondo è Tumble Down di Merchant. E andiamo a leggere cosa dice il volantino, l'avete visto sicuramente, a giro rosso e bianco, molto appariscente, un davanti molto attraente, un dietro molto sostanzioso, non c'è ripartenza senza cambiamento. Il SARS-CoV-2 ha evidenziato le iniquità sociali di un modello economico che genera lo sfruttamento e l'emarginazione delle classi popolari a favore di ricchi e padroni. Oggi le macerie che la crisi ha prodotto ci danno l'occasione di una nuova consapevolezza di massa e di classe. Contro le ingiustizie economiche e in nome dell'uguaglianza, lottiamo insieme per questi 10 punti. 1. Per il rilancio immediato della sanità pubblica, con più presidi sanitari, sia di emergenza che ordinari, e con recupero di edifici ed aree ex sanitarie dismesse. Che, oserei dire, sono veramente tante, anche Firenze, perché se Santa Rosa è stata strappata agli uffici della regione, possiamo dire Villa Basileschi, possiamo dire diverse. 2. Per l'aumento significativo di personale negli organismi ospedalieri, per la rivalutazione degli stipendi nelle mansioni sanitarie e per l'assunzione diretta di lavoratori e lavoratrici oggi sfruttati dal sistema degli appalti. per l'abolizione del ticket sanitario per i redditi bassi e medi, numero 3. Al numero 4, per la riqualificazione del salario minimo e per un reddito di dignità strutturale e universale garantito. Scendiamo inoltre in piazza al punto numero 5 per il contrasto alla disoccupazione con l'abbassamento dell'età pensionabile e con la riduzione dell'orario di lavoro nei contratti nazionali a parità di stipendio. Numero 6 per lo stop ai contratti di lavoro precario e senza tutele, al numero 7 per il ripristino della scala mobile dell'articolo 18 e il divieto stabile di licenziamenti arbitrari. 8 per il diritto alla casa, il diritto di residenza per tutte e tutti, al punto 9 invece per il diritto allo studio e a un'istruzione di qualità gratuita e sicura con riduzione del numero degli alunni nelle nuove classi, implementazione di edifici e aule scolastiche e degli organici e dei salari. Infine, ultima ma non per importanza, per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi contro processi speculativi e lo spreco di risorse fondamentali come suolo ed acqua. Tutto ciò è economicamente possibile e vi diciamo anche dopo, ma ve lo diciamo fra un po'. E abbiamo sentito Stefano Cecchi poco fa, ma le voci non sono finite. Abbiamo in collegamento Simone, lavoratore Bekaert. Buonasera, ci senti? Ciao a tutti, un po' a tutti, ciao. Bene, un grande piacere averti qua, non mancherete, in piazza il 30, quindi questo sabato. E lavoratore Bekaert, la faccenda è seria, la faccenda è molto complicata. Se intanto sì. Ci vuoi raccontare un po', questo periodo non è stato diciamo un grosso cambiamento, però quello che si può dire è che la cassa integrazione è agli sgoccioli anche per i lavoratori e le lavoratrici Bekaert. Sì, è tutto, vi ringrazio per la chiamata e ora il 30 vedremo un paio di noi se riusciamo a essere in piazza. E niente, sì, la casa integrazione più che altro noi è da un anno e mezzo che siamo in casa integrazione. Ora abbiamo avuto, grazie anche alle nostre lotte, un diciamo prolungamento sino a ottobre. Ci siamo attaccati a quella della cosiddetta cassa Covid, certo. Però i problemi restano, cioè sono i problemi che un po' vengono a pezzi, cioè e no, che vengono a pezzi. Cioè. Quali sono i nodi grossi? Ma i nodi grossi sono quelli che noi che noi ci si vive appunto da un anno e mezzo, cioè i ritardi della saturazione, perché spesso le saturazioni, se non vengono anticipate, bisogna stare dietro a tempi dell'Ips, e quindi capirete bene che stare, cioè non sapere quando questa cassa viene, cioè viene, ecco, erogata, fa cadere in grossi problemi una parte dei lavoratori. E poi ci sta ancora la, diciamo, incertezza che il nostro sito produttivo non si sa bene che fine farà. Non abbiamo ad oggi industriali credibili, diciamo loro, che possano rilevare lo stabilimento. Ora staremo a vedere. Ecco, perché una proposta c'è, un'azienda, se non sì. mi sbaglio, umbra marchigiana? Ma sì, quelle sono le trattative meridionali, che però in questi ultimi mesi siamo venuti a sapere che non è che abbia tanto, diciamo, è un ti a posto, cioè siamo sempre alle solite, cioè questi padroni, o come abbiamo chiamato, imprenditori, che poi vanno ai ministeri, che per riaprire le fabbriche è battuta cassa, vogliono soldi, e non solo per far riaprire le fabbriche, ma anche, come in questo caso, per accanare debiti fatti, cioè fatti in passato, cioè sono tutti liberisti fino a quando poi non vanno a battere cassa, diciamo, allo Stato, e così è troppo comodo, diciamo, a questo modo. Purtroppo è una cosa che abbiamo visto, ne parlavamo poco fa con Stefano Cicchi dell'USB, stessa cosa è successa per i dipendenti, diciamo, degli appalti pubblici, dipendenti delle cooperative, ma abbiamo visto anche la Fiat. Ma invece, naturalmente, voi spingete per una reindustrializzazione fermamente? Sì, noi abbiamo, cioè noi in quest'ultimo anno, un gruppo di lavoratori, dopo vari incontri, assemblee, caffè, cioè dai bar, o quando si è arrivata la fabbrica, un gruppo di circa 70 lavoratori si è deciso di rompere gli indugi. E si può provare a fare una cooperativa, cioè l'abbiamo già costituita una cooperativa, per vedere di fare ripartire tutto l'assorbimento, riassumendo tutti i lavoratori, sempre una cooperativa metà meccanica con tutte le difficoltà, però è diciamo un modo diverso di affrontare il problema, cioè non andare sempre a cercare il costo, come dicono loro, l'imprenditore, il magnate, ma diciamo chiaro, il padrone, che vuole stare sempre sotto un padrone che risolva i problemi, che poi questi poi chiudono le fabbriche, ma tentare di intraprendere una strada è diversa. Ecco, sì, questa cooperativa, se non mi sbaglio, è l'avete chiamata Steel Coop Valdarno, sì, giusto? Sì, sì, bravo, sì. È Steel Coop Valdarno. Ci sa tutti, diciamo, crismi burocratici, purtroppo ci vogliono quelli, ci sarà un presidente, un presidente che però fa più che altro da portavoce, ci sa i nostri consulenti che ci siamo dovuti appoggiare Lega Hop, perché è l'unica sul territorio che ha questi strumenti, però anche noi abbiamo trovato S figure della fabbrica che si sono prestate, dico S figure in quanto quadri, ingegneri e consulenti, i quali credono nel progetto e che ci stanno dando la mano. Ecco, fra l'altro avete voluto, insomma, avete più volte, vi siete interfacciati con le istituzioni, sia il Ministero, ma in questo caso anche la Regione ha un ruolo. Che risposte avete ricevuto? Io allora leggo di c'è una parte del Consiglio regionale che vi sostiene, in particolare Fattori e Sarti, sì. Ma invece sembra che la Giunta vada in altre direzioni? Ma io questo non so ancora dirti bene come la Giunta vada, però io so che ci sono sappiamo che ci sono delle difficoltà politiche, perché naturalmente la cooperativa va un po' a spezzare quelli che, diciamo, sono i crismi e i dogmi di mercato. Sicuramente il centrodestra ci è contro, sicuramente c'è una grossa parte di PD che è contro questa cosa, e poi ci sono varie forze, tra cui anche la sindaca di Segine di Paese Nostro, che prende in considerazione anche questa opportunità. E ribadisco, a oggi siamo gli unici che si è presentato il piano industriale al Ministero, chiaro, senza tanti giochetti fatti da varie aziende che ancora non si sa né nome, chi sono, come operano e quanti lavoratori vogliono riassumere. Poi, per tornare al politico, c'è qualcuno che rema contro, e non solo il politico, ma anche a livello sindacale. Comunque lasciamo perdere. Ecco, no, lasciamo perdere. In verità siamo il 30 maggio con i sindacati di base, quindi comprendiamo molto bene anche questi attriti fra le varie forze sindacali, purtroppo presenti non solo in Bekaert, ma direi un po' allargate in tutti i settori e in tutti i posti di lavoro d'Italia. Veramente purtroppo. Si parlava appunto prima della proposta di questa Trafilerie Meridionali SPA di Chieti, l'ho ritrovato, sì. Sono appunto, sì, vengono spalleggiati, ma hanno un debito di 24 milioni di euro. Bravo, quindi, bravo, sì. Mi sembra che in questo caso si andrebbe incontro a dei problemi, insomma, che già state affrontando. E quindi quante persone sono, quanti operai e di conseguenza quante famiglie sono bloccate in cassa integrazione nella questione? Allora, adesso siamo rimasti sui i 180, perché diversi se ne sono andati, perché poi la Bekaert ha giocato al solito logoramento, cioè di far sempre slittare gli incontri al Ministero, come al solito, cioè come sempre si dà più adito a padroni rispetto che a rappresentanti dei lavoratori. Quindi la cosa andando per le lunghe, e poi gli operai e i lavoratori, qualcuno che poi ce la fa più, accetta solo e se ne va. Ma è un gioco già visto, non è che siamo noi e basta, cioè noi siamo un numero esiguo rispetto a altre vertenze che c'è in Italia. E sì, quindi, sono persone, voglio dire, alla fine i lavoratori sbaglio. No, facevo per non, cioè perché noi siamo un pezzo di quelle aziende che con la persone per ora riescono a sopravvivere, ma che non hanno risolto il problema. Questo volevo dire. Sì, concordo, siete diciamo purtroppo una goccia in un mare del disastro delle questioni lavorative e industriali in Italia, però insomma tutte queste gocce se le uniamo quantomeno un giorno, quantomeno il 30 maggio, vediamo un po' di far sentire la voce delle difficoltà che sono tante, soprattutto in questo momento. Quindi appuntamento il 30. Vai, sì, io cerco di esserci, dai, sì, appuntamento il 30. Bene, da Radio Wombat sicuramente una grande solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Bekaert, impegnati da oramai quasi 2 anni in questa lotta. Ancora grazie a Simone grazie a voi, e a sabato. Grazie a voi, ciao. Ciao, buona serata. Ciao. E abbiamo sentito Simone, non ci resta che andare con un pezzo di Appino, il lavoro mobilita l'uomo, ancora fra 20 secondi vi lascio finire, Merchant. hai denaro, ho sete ma non di gloria. Regalami un cielo stellato e un po' della più dolce noia. Per fare i conti non serve una penna o un calcolatore, ma chiudere gli occhi aiuta, è un po' del mio vino migliore. Hai labbra un po' screpolate, ma c'è una fontana più in là. Tempo sprecato, ma troppo fiscale all'orario. Devo darti ragione e brindo alla tua nobiltà. È che ti han ridotto a prigione contro la tua volontà. Il lavoro mobilita l'uomo, è questa la verità. Signori lavoratori,

abbiamo prima letto i 10 punti delle rivendicazioni del corteo del flash mob, scusate, non sono abituato a dire flash mob, della manifestazione di sabato 30, e prosegue dicendo: tutto ciò è economicamente possibile facendo cosa? Per prima cosa con l'abbattimento delle spese militari, in armamenti e missioni di guerra all'estero, e con la chiusura delle basi NATO. Poi, inoltre, con la completa gestione pubblica dei settori sanità e istruzione e la cessazione dei finanziamenti alla sanità privata e alla scuola privata. Con l'abolizione del sistema di welfare aziendale che toglie risorse vitali al sistema sanitario nazionale. Ne abbiamo parlato abbastanza spesso anche ai microfoni di Radio Wombat. Poi con la gestione pubblica di RSA del ciclo dei rifiuti, scusate, dell'energia e delle telecomunicazioni. Inoltre con la ripubblicizzazione del trasporto e dell'acqua. Proprio riguardo a questo sentiremo la voce di Alessandro Nannini, rappresentante dei COBAS all'interno dell'ATAF, fra pochi minuti, non la prossima voce ma la prossima. Inoltre con una forte tassazione dei grandi patrimoni e dei grandi capitali, con la cancellazione delle opere inutili come la TAV, il TAP inceneritore e nuovo aeroporto, destinando risorse al benessere sociale, collettivo, solidale e ambientale. Noi ci fermiamo qua perché inoltre si propone la diminuzione del carico fiscale sul lavoro dipendente, l'esproprio delle aziende che esternalizzano le produzioni, vedi Becart, l'esproprio e la redistribuzione delle abitazioni sfitte. E questo è quanto, ma non è poco. L'epidemia lo ha dimostrato, questo sistema è malato e va cambiato. Ogni giorno è il primo maggio. Purtroppo devo dire che avevo in programma di passare la voce di una lavoratrice dello spettacolo, lavoratori e lavoratrici in fortissima difficoltà, visto le enormi incertezze che si vedono, insomma, che sono evidenti, visto che la programmazione dello spettacolo è sparita e non si sa nemmeno quando e come potrà ripartire. Quindi veramente migliaia e migliaia di persone sono rimaste senza lavoro, con il dubbio anche: ma

dovrebbero essere finite le telefonate. Abbiamo ancora una voce che arriva dalla piazza di Sabato, piazza Santissima Annunziata, priorità alla scuola, l'abbiamo forse già passata, io ve la rimando, è una delle varie oramai mobilitazioni che abbiamo visto sul suolo fiorentino. Intanto ancora qualche secondo di Giovanni Lindo Ferretti e poi ancora l'operaio Massa. È che io in fabbrica mi annoio, mi rompo i coglioni. Allora lavorano, lavoro, cosa devo fare? Senti il concetto. La vita, traguardo, striscione. Tutti dentro in pista. Qui dentro siamo tutti in corsa. Io sono un campioncino qui dentro, lei lo sa, è vero? È vero. E poi ci sono i Teroni, come questo qui, Sicilia Orientale, che sono tutti dei pendolari. Al mattino arriva qui già stanchi e io li frego sul remo. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo, 25 carte, ma a pedalare, pedalare, perché io mi concentro, io sono concentrato, io ho la tecnica per concentrarmi, lei lo sa, mi fisso col cervello, penso a un culo, il culo di quella lì, qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare? Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no? Senza tante storie. Capito? Lavora, senza tante storie. Sì. Sì, ho capito, ma voi? Voi quanti anni ci avete? 31. Sono in fabbrica da 15 anni, ho fatto 2 intossicazioni da vernice, c'ho uno squarcio qui dentro, ho fatto l'ulcera. Well, that long black train got my baby and gone. Allora, come dicevo, la voce di Flavio passerà fra poco su questa frequenza e priorità alla scuola, la manifestazione molto partecipata, tra l'altro, che abbiamo visto in Piazza Santissima Annunziata sabato. Vi è anche la trasmissione andata in onda ieri, stampa rassegnata, che va in onda ogni martedì alle 13.30, che ha riportato le voci di altre persone presenti all'evento. La scuola, un altro dei punti critici che abbiamo visto chiudere a inizio marzo, anzi a fine febbraio in alcune regioni d'Italia, e che non è ancora ripartita, ci sono grossissimi dubbi sul come e sul dove anche farla ripartire, ma questo ci riporta un po' a una fascia di persone che sembra veramente che siano state dimenticate o quantomeno estremamente trascurate da tutti i vari decreti, ordinanze, ecc. Si parla degli scolari e delle scolare, studenti e studentesse che hanno vissuto sicuramente delle settimane, mesi anche, di grossissima difficoltà, magari inizialmente è una grande gioia, no? Ah, la scuola è finita, sì, però poi col passare del tempo ti rendi conto anche che hai bisogno di vedere i compagni e le compagne, hai bisogno di vedere professori e professoresse e che questo servizio non può essere certo tralasciato. La voce a quale vi lascio, ripeto, è Flavio dei Cobas Scuola. Flavio di Cobas Scuola da Piazza Santissima Annunziata, ciao Flavio. Ciao. C'è stata appena ora la manifestazione priorità alla scuola, e quindi dici un po' com'è andata.

Ancora grazie a Flavio dei Cobas Scuola. Il tempo sta per finire, sono le 20:54. Ancora pochi minuti e vi abbandono. Ne approfitto per leggervi una cosina pubblicata dal CPA Firenze Sud. E recita: Polizia Municipale e Comune vogliono boicottare la raccolta alimentare. Come ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Come ogni lunedì, mercoledì e sabato mattina, anche oggi eravamo davanti alla Coop di Gavinana con il gazebo per la raccolta alimentare. Oggi si è presentata la Polizia Municipale, autoreparto Porta a Prato, numero di pattuglia 837119. Ci accusano di non aver pagato il suolo pubblico. Vorremmo ricordare a questi signori che, come già scritto in precedenza, eravamo stati contattati dall'assessore Bettini, che tutte le pratiche erano pronte e che è stata la presidente del quartiere Perini a negare l'autorizzazione. Con quell'autorizzazione avremmo poi potuto fare ciò che si fa normalmente per iniziative di questo tipo: fare domanda perché il suolo pubblico non fosse pagato e usare tutti i soldi donati per la raccolta alimentare. Questa è la prassi alla quale non siamo certo affezionati, ma che oggi svela tutta la sua contraddizione. Loro fanno di tutto per ostacolarci, per ostacolarti, e poi usano quegli stessi ostacoli per puntare il dito e accusarti di vivere nell'illegalità. A questi solenti tutori dell'ordine non è bastato neanche la PEC di comunicazione dell'iniziativa inviata oramai quasi 2 mesi fa alla prefettura, questura e alla stessa polizia municipale. Le staffette presenti al gazebo sono state identificate e minacciate con fare arrogante. Non finisce qui. Non solo le istituzioni hanno negato questa possibilità, non solo hanno abbandonato a se stesse decine di famiglie, ma oggi vengono addirittura a batter cassa. Sono queste le risposte che chiediamo al presidente Perini? Al sindaco Nardella? Che cosa ha da dire in merito? Vogliamo forse anche noi abbandonare 120 famiglie come hanno fatto loro? Si vergognano e basta. Non finisce qui, lo diciamo noi. E questo, sicuramente non possiamo dare torto. Il comune non ha speso un euro per le famiglie in difficoltà, ha utilizzato i fondi elargiti dallo Stato, ha utilizzato per l'affitto i fondi regionali. Il comune veramente non ha speso un euro, quindi veramente vergogna, vergogna, vergogna. Solidarietà, compagni e le compagne, di tutti i sostegni alimentari, che sono innumerevoli, sono nati in città, lo trovate, come abbiamo già detto e abbiamo anche intervistato diversi delle persone che stanno portando avanti questi progetti. C'è una mappa sul blog della Polveriera Spazio Comune che li raccoglie tutti. Vi dico anche, se mi date un secondo, li trovate all'indirizzo lapolveriera.noblogs.org. Ma visto che siamo in chiusura, ne approfitto per darvi due informazioni. Allora, intanto quella di sabato, l'avrete capito, saremo in piazza dalle 17 con una diretta speciale, quindi tra le 17 e le 19 sicuramente potrete ascoltarci. Chi non può scendere in piazza, l'invito è sicuramente quello, ma chi proprio non riesce ci può ascoltare su wombat.noblogs.org oppure sulla 1359. Non vediamo l'ora di incontrare tutti e tutte per alzare la voce e portare la rabbia nelle strade fiorentine, finalmente. Non si fermano qui le dirette speciali, ve ne sarà una anche venerdì. Venerdì ci sarà la Critical Mass un po' in tutta Italia, sarà purtroppo a Firenze il giovedì, cioè domani alle 19:30, ritrovo alle 18:30 in Piazza Santissima Annunziata, ma nel resto d'Italia sarà il venerdì e noi ci occupiamo di fare da ponte radio insieme ad altre radio amiche, quali Radio Forte, speriamo Radio Spore e speriamo anche Radiogramma. Vi sarà una conduzione multipla, va bene, saremo co-condurre questa manifestazione che si svolgerà in più piazze d'Italia, tendenzialmente con le stesse modalità delle Critical Mass usuali, un po' più diffusa per non incorrere in alcun problema. Il palinsesto Wombat, ed è questa l'ultima notizia. il palinsesto Wombat che avete visto speciale nell'arco degli ultimi due mesi. Era il 10 di marzo quando abbiamo comunicato che il palinsesto sarebbe cambiato per andare un po' incontro alle esigenze, alla necessità di stringersi un po' in una comunità. E così è stato, sono stati due mesi molto proficui, ci siamo attrezzati molto bene, le regie e i tunnel vombati si sono disseminati un po' in tutto il territorio fiorentino, ma non solo, tantissimi sono stati i contributi, tante le persone ed ascoltatori e ascoltatrici sono diventati conduttori, conduttrici o anche DJ. Consapevolezza dei mezzi e anche la creazione di quella che potrebbe diventare in futuro una rete tra radio libere. Potete ascoltare infatti il radiogiornale che va in onda ogni giorno alle 13 contemporaneamente su Radiogramma, radio genovese che è afferente diciamo al centro sociale Buridda, Radio Spore, Radio Libera di Bologna e Radio Wombat, tutte accomunate dalla trasmissione sulla 1359 delle onde mediocri. Comunque, tornando al palinsesto, la fase 2 è iniziata, la quarantena è finita, ma il nostro palinsesto rimane comunque bello pieno, bello corposo. Si sono aggiunte alcune trasmissioni, molti contributi e quindi sarà pubblicato a breve con, speriamo, anche un piccolo comunicato che possa chiarire che sì, è stato un momento difficile, ma in questo momento difficile vi sono state anche opportunità che in quei luoghi che non sono stati toccati dai virus, come può essere l'etere, novità che rimarranno stabili. E dunque Bricobaldo non resta far altro che salutarvi e rimandarvi appunto ai prossimi appuntamenti. Non perdetevi le dirette speciali di venerdì sera dalle 21 e di sabato dalle 17. Sabato perdetevela se potete perdervela solo se venite in piazza con noi. Detto questo, sono le 21:01, io vi lascio, me vado a magnà, come spero che facciate anche voi. E quindi buona serata a tutti e tutte da Bricobaldo e da Radio Wombat. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.